Polverini ha detto taglieremo 20 milioni di euro. Tu ti sei accorto che se riusciranno a tagliare 20 milioni di euro torneranno alle spese del 2009. Che cosa hai lievitato e che cosa hai lievitato di più in questi anni? Sì, esatto, i numeri appunto mostrano che anche la cura, diciamo, draconiana annunciata con enfasi non è niente di rivoluzionario. Sarebbe tornare al 2009, cioè prima dell'ultimo rigonfiamento delle spese che ha riguardato in particolare tutte le spese di funzionamento, perché il Consiglio regionale del Lazio ha svariati record, tra cui quello dei gruppi consigliari, sono 21, 8 hanno un solo componente, e anche il gruppo misto ha un solo componente, quindi non è troppo misto. In realtà, cioè il gruppo misto ha un unico componente. Ha un unico componente. Ma che cavolo di gruppo misto è? Cioè, come dire, vorrei un'insalata mista e ti danno un'insalata con la... non è troppo misto, insomma. Cioè, lui che forse magari è in dissociazione e in dissonanza cognitiva, per cui lui è lui e il suo alter ego. Abbiamo tutti più personalità, come è noto, e forse il problema è quello. Ha il record di commissioni, tra commissioni e commissioni speciali. Questo determina sì un rigonfiamento delle indennità, perché la carica di capogruppo, presidente di commissione, vicepresidente ha delle indennità, ma determina soprattutto la moltiplicazione di uffici, segretarie, scrivanie, tavoli, certo, sedi, linee telefoniche, eccetera, e questo ha fatto gonfiare enormemente le spese di funzionamento del Consiglio. L'altra cosa che è aumentata è quella dei servizi appaltati all'esterno, in particolare a Lazio Service, che è una società sempre interamente della regione, che si occupa sempre di spese di funzionamento. Lì la voce è triplicata in 3 anni. Questo vuol dire sostanzialmente che con un eccesso di risorse iniziale si determina ovviamente, come dire, un certo rilascio nei controlli, mettiamola così, per cui la cosa prende una piega di aumento più o meno generalizzato. Sono aumentate certo anche le indennità, proprio per questo fiorire di cariche aggiuntive, capogruppo, presidente di commissione, vicepresidente, eccetera. Sono aumentati ancora di più i vitalizi, che paradossalmente aumenteranno a un ritmo ancora maggiore nei prossimi anni, nonostante la riforma che li ha aboliti. Uno, perché li ha aboliti come chiedeva la finanziaria dell'anno scorso, ma li ha aboliti solo dalla prossima legislatura. È sempre così, dalla prossima legislatura. Questo è sempre così, ma nel Lazio hanno fatto una cosa di più, cioè abolendoli li hanno estesi agli attuali assessori non consiglieri.